Questa storia si basa su fatti realmente accaduti. Non cercano fan, cercano figli di bagassa che non siano conformati con sta merda di massa. Prima spaccano gli impianti quando il nostro suono passa. La nefasta melodia che dentro lascia e che si incastra. Tu traccia la sua via contro il trash che trancia. È uno sfascio, una varia, il flash del cash a oltranza. E quindi perdi la speranza nel futuro, la fiducia in questo mondo che si innalza, la stirnazza, le tue gambe spazza. Questo fuoco è oscuro, so che è duro, ciò mi sbanda e scazza. Domande al muro, sono sicuro che il domani spiazza. Se non t'ammazza, questo ti farà pensare. Chi sarà? Maledizioni, suoni, il rito sull'altare.